Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Bentornati di nuovo a tutti i nostri teleradio ascoltatori, siete sempre su Liberi Dentro Eduradio TV e la nostra trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Io sono Caterina Bombarda, qui alla conduzione con Antonella Cortese. Ciao Antonella, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Caterina. Apriamo con le notizie sempre tra carcere e città, oggi ne leggo una che riguarda in particolare la nostra città di Bologna. Dal Corriere di Bologna, Patrick Zaki a Bologna alla Panchina Verde dove aspettare il suo ritorno. Sì, perché è stata installata nel cortile di Palazzo D'Accursio questa panchina verde, verde il colore della speranza, no? Per aspettare lo studente egiziano dell'Università di Bologna che, come sapete, è stato detenuto per quasi 2 anni nelle carceri egiziane perché accusato di aver diffuso notizie false che danneggiavano l'Egitto e per cui si è mobilitato il mondo intero, in particolare l'Italia. E una panchina quindi per aspettare un ragazzo che ama questa città, che non vede l'ora di ritornarvi e che ora, in vista dell'udienza del 6 aprile, spera di tornare in quello che è diventato il suo paese ormai, la sua nuova seconda patria. È una bella idea questa della panchina verde. Senti, ma come nasce questa iniziativa? Ma proviamo a ricapitolare. Nel giorno della liberazione dello studente, il disegnatore e attivista Gianluca Costantini aveva realizzato una vignetta, che forse vi ricordate, per il Corriere di Bologna, che ritraeva proprio Zaki seduto su una panchina immaginaria a pochi passi dalla statua del Nettuno. Quel disegno aveva colpito, insomma, anche l'immaginario del Corriere di Bologna, che aveva scritto una lettera al sindaco Matteo Lepore, chiedendo di installare un progetto del genere, cioè di renderlo realtà, proprio perché ci si chiedeva ma se fosse davvero esistente una panchina per aspettare simbolicamente la liberazione di Zaki, qualcosa di temporaneo che poi possa essere tolto nel momento in cui Patrick rientrerà nel suo paese. Ecco, e per queste ragioni Matteo Lepore ha accettato, ecco, di buon grado questa proposta. La panchina è stata installata, come vi dicevo, e proprio nel cortile Guido Fanti del Comune di Bologna. E l'invito è proprio quello a sedersi sulla panchina, scattarsi una foto, magari con amici, persone, diffonderla sui social proprio come simbolo per ribadire l'impegno nei confronti di Patrick. Quindi c'è un impegno, diciamo, social, nel senso che appunto ci sono i social media, ma anche sociale, perché unisce le persone sulle panchine. E senti, ma Zaki che cosa ne pensa di tutto questo? Guarda, prima di dirti cosa ne pensa Zaki, vi svelerò un piccolo aneddoto, perché proprio qualche giorno fa, in realtà io questa notizia l'ho saputa grazie ai detenuti del carcere della Dozza di Bologna, che mi hanno inviato una serie di lettere, un carteggio che loro hanno avuto con Rita Monticelli, la professoressa di Zaki, Zaki stesso, a cui poi c'è stato anche risposta, e Zaki ha risposto loro, e il rettore universitario, per manifestare il loro sostegno verso Zaki, anche il fatto che come carcerati capiscono perfettamente la situazione di chi si è trovato senza la libertà, soprattutto da innocente in questi ultimi 2 anni. E quindi la cosa bella è che anche loro si sono immaginati un giorno, quando arriverà anche la loro liberazione, di sedersi su quella panchina insieme a Patrick, di poterlo abbracciare e tutti da persone libere. Del resto proprio ci scrivono Paolo e Donald, che voglio anche ringraziare. Chi meglio di noi due ergastolani può sapere come ci si sente a essere prigioniere? Si dicono infatti amareggiati per questo rinvio dell'udienza di Patrick ad aprile e sperano che gli arrivi presto questo sogno che si sono immaginati di poterlo incontrare davvero su questa panchina, nella speranza anche di fare una foto reale tutti e tre insieme. Quindi anche loro stanno aspettando Zaki. Però mi chiedevi cosa ne pensa Zaki? Lui ha risposto sui social, ha risposto grazie per il vostro impegno e ora chiaramente stiamo tutti aspettando che lui possa sedersi su questa panchina realmente. Lui chiaramente adesso è cittadino onorario della nostra città di Bologna, è anche uno studente dell'Alma Mater, quindi le parole anche di questi due studenti che gli hanno scritto sono ancora più significative, perché anche loro sono studenti della Università Alma Mater di Bologna. E in questi mesi Patrick è diventato tante cose, è diventato anche il simbolo per la lotta dei diritti umani e per molti, certo forse non per tutti, è un ragazzo che dovrebbe fare come tutti i ragazzi della sua età, studiare, scoprire il mondo, stare con i propri genitori e amici e non certo ritrovarsi recluso in un paese per delitti che non ha commesso. Ma passiamo alla musica prima di tornare alle notizie, sempre con musiche che hanno vinto il premio Amnesty Voci per la Libertà, Francesca Michelin e i Maneskin, Stato di Natura. A tra poco. Quando parli non capisco, sembra che ci sputi, oppure urli perché devi amplificare. Sei già pezzo grosso solo dopo due starnuti, ma il tuo concerto dura 15 minuti. Perché spaccare tutto, essere aggressivi? Cani che ringhiano ma con in tasca gli antidepressivi e con gli altri parassiti. Criticare il prossimo per farci grandi, ma sotto la foto mettere la cifra grande. Cani della mia natura, fammi fischiare per strada come se fossi un cane. Non è una nostra natura, direi di amarci alla fine. Si veste come le va, ci insegna anche la donna e madre, o una pina che guida male, ma il navigatore a quella voce là dell'immagine servile con cui ci avete dipinte, con il fatto di sentirci obbligate a essere spinte. Usate il nostro seno ovunque, una cosa normale, ma se allattiamo in pubblico non si fa immorale. Non è nella mia natura fammi fischiare per strada come se fossi un cane. Non è nella nostra natura direi di amarci alla fine, amarci così male. Siamo schiavi di una cultura patriarcale, la cultura del possesso, dove nessuno può più scegliere da che parte stare, dove una madre è solo madre, una figlia è solo figlia, un uomo è solo uomo e l'amore è solo uno. E ho visto troppe mani non alzarsi in aiuto degli altri e diventare schiaffi, e non è un complimento urlare che bel culo. Ricorda, non ti rende uomo c'è per dare un pugno. Non è nella mia natura. E rieccovi, bentornati. Siamo sempre su Liberi Dentro di Radio TV con Antonella Cortese, parliamo di notizie internazionali, non c'è solo il Covid, non dobbiamo scordarci che esistono anche altre malattie molto infettive, parliamo infatti di morbillo in Afghanistan, cosa sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo ci sono molti decessi, Caterina. L'epidemia è stata definita addirittura furiosa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta provocando centinaia di decessi, soprattutto fra i bambini al di sotto dei 5 anni, già infragiliti dalla fame, dalla malnutrizione, anche a causa delle difficoltà di garantire aiuti umanitari. Ti do qualche numero. La popolazione afghana, circa 38 milioni, ha il 42% di persone, di bambini, di ragazzi di età inferiore ai 15 anni, secondo la World Bank. E affronta il sesto mese di convivenza con il nuovo governo dei talebani, dopo circa 80.000 morti tra i civili durante i 20 anni di presenza militare statunitense della NATO, e con una situazione di povertà diffusa e insicurezza alimentare, alimentata anche dal congelamento delle ingenti riserve internazionali della Banca Centrale Afghana, che da 9,5 miliardi di dollari si sono ridotte a 7 miliardi dal 18 agosto scorso, quando cioè il governo di Washington li ha bloccati per non farli finire nelle mani dei talebani. E quel denaro è ora in un fondo fiduciario della Banca Federale delle Riserve di New York, e una parte, cioè 3,5 miliardi, dovrebbero in futuro essere impiegati per gli interventi umanitari in Afghanistan. Gli altri 3 miliardi e mezzo, gli USA li trattengono per compensare le famiglie delle vittime degli attacchi terroristici, compreso l'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Questa notizia l'ho letta su Repubblica, ecco, prima non l'ho detto. Ecco, grazie. E mentre ti ascolto, come forse anche altre persone che ci stanno ascoltando, penso che sia incredibile morire di morbillo, per il quale tra l'altro in Italia c'è il vaccino, nel 2022. Quindi quali sono le ragioni di questa preoccupante malattia? Caterina, la situazione è proprio contingente a quello che c'è lì, quello che succede, perché all'emergenza determinata dal fatto che la metà della popolazione afghana sopravvive con aiuti umanitari e tre quarti vive in condizioni di povertà estrema, si aggiungono poi i casi di morbillo che provocano altre vittime. L'allarme è dell'OMS, quindi insomma non stiamo parlando di qualcosa così buttato lì, l'Agenzia Sanitaria delle Nazioni Unite, dalla quale si apprende che l'epidemia è particolarmente preoccupante, proprio perché è aggravata da una massiccia insicurezza alimentare, dalla malnutrizione, che espone soprattutto i bambini ad una maggiore probabilità di contagio. Infatti è definita addirittura furiosa, come abbiamo detto all'inizio, sta colpendo decine di migliaia di persone dopo averne uccisi più di 150 solo nell'arco del mese scorso. I casi di morbillo, ci dice il portavoce dell'OMS, Christian Lindmeier da Ginevra, sono aumentati in tutte le province dalla fine di luglio 2021 e aggiunto anche che i casi recentemente sono aumentati del 140%. Quindi insomma la situazione è molto grave. E muoiono soprattutto bambini e in tutto il mese di gennaio sono stati segnalati 35.319 casi di morbillo, di cui 3.000 confermati in laboratorio e 156 decessi, il 97% dei bambini con meno di 5 anni e sono anche numeri sottostimati purtroppo. E quindi questo ci dà anche la dimensione della gravità della situazione, il fatto che attacchi soprattutto i bambini, però spiegaci perché è così pericoloso. Allora, guarda, è una malattia sicuramente altamente contagiosa, causata da un virus che attacca principalmente i bambini. Le complicazioni sono relativamente rare in condizioni normali, ma il morbillo è pur sempre responsabile di un numero compreso tra 30 e 100 morti ogni 100.000 persone colpite in tutto il mondo. Le complicazioni sono dovute principalmente alle superinfezioni batteriche, otite media, laringite, diarrea, polmonite o encefaliti, che sono praticamente infiammazioni del cervello. Si riscontrano più spesso nei neonati e nei bambini malnutriti o nelle persone immunocompromesse. L'ultima ondata di casi arriva proprio mentre l'Afghanistan è nella morsa di un disastro umanitario, quello è il problema, aggravato anche dalla conquista del potere dei talibani e dal blocco degli aiuti internazionali e quindi dall'accesso dei beni detenuti all'estero. E questo è il grosso problema. E quindi il morbillo in questa situazione è devastante. E la campagna vaccinale? Allora, guarda, tenendo sempre conto delle condizioni complessive dell'Afghanistan, le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite continuano ad avvertire che c'è carenza di cibo. Però, insomma, una migliore protezione ci sarebbe con la vaccinazione, e con almeno il 95% di copertura, che è tantissimo. E diciamo che si sta lavorando in questo senso per poter portare il vaccino o comunque lanciare campagne di immunizzazione, però il sistema sanitario dell'Afghanistan crolla sotto lo stress della povertà e dell'oppressione talebana. Quindi immaginati da noi con questa pandemia che cosa è successo alla nostra sanità. In Afghanistan, dove c'è fame, guerra, carestia, anche lanciare una campagna vaccinale è estremamente complicato. Comunque, possiamo dire che un milione e mezzo di bambini sono stati già vaccinati per il morbillo, almeno questo. Però vorrei dare un'immagine un po' più leggera, un po' più lieve, con una canzone famosissima di John Lennon, Imagine. Però, come al solito vi dico, non andate via perché dopo c'è la seconda intervista di Caterina Chiara Giannelli della redazione Ne vale la pena. A dopo. Imagine all the people Eccoci, bentornati anche oggi, sempre su Liberi Dentro Du Radio TV. L'ospite già da ieri è la nostra Chiara Giannelli della redazione Ne Vale la Pena al carcere La Dozza di Bologna, il carcere Rocco D'Amato, che è una esperienza di una redazione digitale nata per portare all'esterno la voce delle persone ristrette, che quindi scrivono articoli che vengono pubblicati sul portale di Bandiera Gialla e poi, come dicevamo ieri, anche sulla pagina Facebook della stessa associazione Ne Vale la Pena. Ma Chiara, ovviamente voi vi rifate come organizzazione all'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario che permette il volontariato in carcere, ma ovviamente anche all'articolo 27 che cita questa frase che noi volontari per forza sappiamo, ma anche le persone detenute, che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e quindi devono favorire la rieducazione. Ma io ti chiedo come riuscite allora a dare voce alle persone all'interno, se avete uno spazio fisico in cui vi ritrovate. Ok, bentrovati. Sì, è una domandona, è il cuore veramente, hai toccato un punto fondamentale. Certo, l'articolo 17 ci consente di entrare perché ha come obiettivo il contatto della società esterna con chi vive recluso. L'articolo 27 è il cuore, è il fondamento, no, del nostro agire. E quindi tendere alla rieducazione, che poi rieducazione, risocializzazione, reinserimento, ricucitura, insomma potremmo declinare il concetto in tanti modi. Ecco, noi nel nostro piccolissimo, senza voler avere la pretesa di cambiare il mondo, con questa attività, sedendoci in uno spazio fisico, certo ce l'abbiamo, è la biblioteca dell'area pedagogica del carcere, quindi per chi entra o per chi ha un'idea, comunque c'è un'area pedagogica e ogni sezione ha una sua biblioteca, lì c'è un bel tavolone, assomiglia a una redazione vagamente, insomma un bel tavolo di redazione e siamo affezionatissimi a questo tavolo. Ecco, lì la nostra idea di rieducazione è intanto da parte nostra probabilmente condividere e mettere a disposizione il privilegio che abbiamo avuto di studiare, di imparare, di conoscere. Magari molti di loro questo privilegio non l'hanno avuto, non tutti, perché poi le persone che vengono hanno storie anche diverse, no? Però condividere quello che appunto è un privilegio e metterlo a disposizione. Ecco, io credo che nel piccolo questo però sia un intervento di rieducazione potente, senza voler insegnare niente a nessuno, mettendosi a fianco, cercando un po' di dare il tracciato, di camminare insieme, magari dando il percorso, insomma. Questo è un po' lo stile, ecco. Certo, e ovviamente l'originalità di tutto questo è che gli articoli possono essere letti in maniera immediata perché c'è la redazione digitale di Bandiera Gialla che li pubblica anche il portale Facebook e quindi dei temi che riguardano il carcere possono essere letti dalla cittadinanza. E quindi voi avete ovviamente la necessità di ritrovarvi più volte durante un mese, per esempio, in questo spazio. Quante volte vi ritrovate? Sì. Allora, ci vediamo una volta alla settimana per 2 ore, il martedì pomeriggio classicamente è il nostro appuntamento, appunto come dicevo nella biblioteca dell'area pedagogica. E 2 ore sono poche, pochissime per tutta la carne al fuoco, che poi è l'entusiasmo, no? Per cui di carne al fuoco ce n'è tanta, servirebbe veramente probabilmente un incontro quotidiano come una vera redazione di professionisti. Vabbè, ci accontentiamo della nostra redazione settimanale e lì si lavora. Ecco, hai detto una cosa su cui mi permetto di fare una precisazione, cioè La nostra produzione, certo, potrebbe essere pubblicata immediatamente perché siamo su un sito web. In realtà la nostra cucina è una cucina a fuoco lento. Le idee... Esatto, chiarisci, esatto. Ecco. Stiamo sempre parlando di carcere, quindi... Di carcere, perfetto, dove direi che niente va veloce, ok? Ecco, quindi anche questa è un po' una connotazione. E niente semplice, ma... intanto le idee, la proposta di un argomento, la ricerca delle fonti, la discussione, che è un valore fondamentale, magari anche più avanti ne possiamo parlare, e qualcuno che si offre di scrivere, magari porta un pezzo alla volta dopo, si legge insieme, è una lettura collettiva, c'è una rielaborazione e a un certo punto si decide che il testo è pronto, ma è pronto per cosa? Per essere passato all'area educativa che lo vaglia. Che lo vaglia, okay? Certo. Noi certo. Abbiamo anche questo aspetto, quindi abbiamo un aspetto di valutazione dei testi, non lo voglio certamente chiamare censura e non abbiamo mai avuto grossi problemi, ma una valutazione sulla pubblicazione. Poi c'è l'ok, e quindi non proprio immediatamente poi il testo è a disposizione. E ovviamente per scrivere, lo sappiamo, servono delle fonti, quindi voi vi occupate anche di portare dei testi che possono ispirare gli scrittori, i vostri redattori? Sì, sì. Allora, al giornalista servono le fonti, volevo dire una cosa che forse, ecco appunto, può essere interessante per chi ci ascolta. Siamo una redazione carta e penna, pochissimi di loro possono utilizzare un personal computer. Non ci scambiamo file, quindi veramente, cioè, i testi li vediamo scritti, ripeto, sulla carta. E anche questo, no, da parte nostra, poi la trascrizione, lo volevo dire perché forse... Non è banale, Chiara, no, assolutamente, assolutamente. Fonti, old style. Sì. Certo, le fonti, e le fonti loro non le hanno, se sì. Non i libri che sono in biblioteca, quindi... È chiaro, in un mondo invece di assoluta connessione siamo noi a dover così essere i tramiti, no? Quindi ogni settimana leggiamo una rassegna stampa, uno dei nostri volontari mette appunto una rassegna stampa, quindi sulla qualità, poi facciamo un approfondimento su documenti normativi, magari è uscito un decreto sulla detenzione o una circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, o perché no, cerchiamo spunti letterari, insomma... Certo, cerchiamo di contestualizzare gli argomenti col portare le fonti, ma anche qui portando fotocopie, perché non possiamo scambiarci file. Quindi, certo, c'è un lavoro anche di ricerca delle fonti, sicuramente, e ne discutiamo. Discutiamo insieme. Quindi, come in ogni cucina di redazione, esisterà un caporedattore. Guarda, io non lo so, formalmente no. Informalmente, io non so se in cuor loro sono io, non lo so, però mi chiamano la zia, e zia in carcere vuol proprio dire che sei importante, eh? Lo dico un po' per, sì, lo zio o la zia in carcere vuol dire, allora, questo è un po' per scherzare, però certo che noi volontari, e soprattutto io e padre Marcello, che insomma non siamo proprio giovani, abbiamo un po' la responsabilità del così coordinare l'attività, ma non c'è un caporedattore istituzionale, si discute e quasi sempre ci mettiamo d'accordo, tutto il gruppo è d'accordo, ecco, quindi si discute. Bello, Chiara. È finito il tempo anche oggi, però noi abbiamo la fortuna di averti programmato tutta la settimana con noi, quindi ci rivediamo domani. Scriveteci redazionelibridentro@gmail.com. Una pausa musicale, ci rivediamo tra pochissimo. Ciao Chiara, grazie. Ciao a tutti. C'è la luna sui tetti, c'è la notte per strada, le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni è Natale, ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù.